Alessandro Mela, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti qui a Radio 24, ma anche in tutta Italia, credo, penso. Sì, siamo allineati. Va bene, oggi avremo... questa è la brioche di Carmelo Lauricella. Me l'ha gufata, è il suo compleanno, mi ha portato la brioche e alla crema e mo adesso mi è rimasta così un po' in gola. Va bene, dai! Oggi avremo con Oscar Giannino l'onorevole Boccadutri. Chi è? È colui che ha firmato la legge più contestata, quella che ha permesso in 24 ore ai partiti di portarsi a casa chi dice 20 milioni, chi 45 milioni di euro. Comunque è uno dei temi più sviluppati sui giornali, insieme alla legge di stabilità ovviamente che arriva oggi. E allora sarà con noi l'onorevole Boccadutri, ma parleremo di tanti temi, il tetto da 1.000 a 3.000 euro delle spese in contante che verrà alzato in legge di stabilità e anche altro, eh? State con noi, intanto andiamo a leggere i giornali. Eccoci, giovedì 15 ottobre, i titoli sono tutti più o meno dedicati alla legge di stabilità che arriva oggi con questa novità. Manovra per gli over 63, incentivi al part-time, è il titolo del Sole 24 Ore di prima pagina. Così il Corriere della Sera, lavoro part-time prima della pensione, cancellata la TASI. Repubblica, spunta il part-time per gli over 63, si spacca il nuovo centrodestra, titolo di prima pagina. Per La Stampa invece una manovra da 27 miliardi, sconto ridotto alle imprese. Pensioni part-time è anche il titolo del giornale. Sono tutte le anticipazioni della manovra che verrà varata oggi dal Consiglio dei Ministri, eh? Il Messaggero, il part-time prima della pensione. Per il Manifesto, castello elettorale. Oggi il governo vara una legge di stabilità di tipo berlusconiano, accusa il Manifesto. Mentre l'Unità, meno tasse, più giustizia. Avvenire, in manovra serve di più per i poveri. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Fatto Quotidiano, e da qui voglio partire... Niente unioni civili in 27 anni, salva soldi ai partiti in 24 ore. Beh, questa fotografia, questo titolo non è male, forse è il titolo del giorno che fa capire quello che è successo ieri al Senato, dove hanno in 24 ore, dopo l'approvazione alla Camera per la verità, hanno approvato tra le proteste, soprattutto di quelli del Movimento 5 Stelle, questa legge, la legge cosiddetta Boccadutri, dal nome dell'onorevole ex tesoriere di SEL, poi passato al Partito Democratico, che ha proposto questa legge per sbloccare i fondi ai partiti relativi al 2013-2015. La vicenda è anche un po' complicata, come sempre ci sono versioni diverse. Fondi ai partiti, la sanatoria è legge, l'ira del Movimento 5 Stelle. Questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 15. Che succede? Sapete che il finanziamento ai partiti sarà abolito dal 2017, o meglio sarà cambiato il finanziamento pubblico, ma c'era una questione relativa ai contributi 2013-2015, contributi che dovevano essere versati nelle casse dei partiti solo se i loro bilanci fossero stati rendicontati e verificati da una commissione ad hoc. Questa commissione non ha potuto verificare nessun bilancio in questi due anni, perché la commissione peraltro era composta da pochissime persone, un magistrato, due segretari, insomma pochissime persone. E allora che è successo? A norma stretta di legge, senza la vidimazione del bilancio non potevano essere dati i fondi ai partiti. E invece è stata passata questa legge Boccadutri, che di fatto è una sanatoria, è una legge che dà più tempo e soprattutto dà più personale a questa commissione per vidimare il bilancio e sbloccare così i soldi. Le accuse dei grillini, è un furto, ladri, solite schermaglie parlamentari, Boccadutri che si difende dicendo «sì, la legge è al mio nome». Questa legge non opera alcuna sanatoria, dice al Corriere della Sera, non regala nulla ai partiti, a parte che, lo rivendico da sempre, io credo che in democrazia sia giusto che i partiti godano di un finanziamento, ma comunque se il personale di questa commissione non riuscirà a vidimare i bilanci, sia chiaro che ci accusano di un falso perché i partiti non prenderanno alcun soldo. Comunque, sui giornali è posta proprio così: Senato da record per i soldi ai partiti e i diritti invece, cioè le unioni civili aspettano, questo è il titolo per esempio del Fatto Quotidiano. Per Repubblica il sì alla sanatoria, 20 milioni da sbloccare per i partiti, gli ultimi da spartire ancora per un paio d'anni prima che nel 2017 cali il sipario. E l'approvazione al Senato è questo che fa specie, è un lampo. In 24 ore, meno di 24 ore, hanno fatto tutto. Oh, io mi vorrei spostare a Roma, perché a Roma ci sono delle cose che stanno succedendo molto interessanti. Sono gli ultimi giorni di Marino sindaco. E Marino ha pronto il colpo di coda, attenzione. Lo raccontano oggi i giornali, la sfida finale di Marino, i fori imperiali senza taxi e autobus. Già sono stati pedonalizzati, ma secondo indiscrezioni Marino vorrebbe pedonalizzare totalmente, vietare anche a taxi e autobus di passare fori imperiali. Cittadini di Roma, che ci ascoltate, sappiate che questo è in mente al sindaco Marino, tra l'altro solo a lui, perché pensate, perfino l'assessore ai trasporti Stefano Esposito, intervistato dal Messaggero, dice: io non ne so nulla di questa cosa, l'ho appresa dalle agenzie e mi sembra un gran pasticcio. Nell'area intorno al Colosseo la circolazione privata ha già avuto disagi significativi. Prima di prendere questa iniziativa servirebbe uno studio di fattibilità rapido, efficiente, legato alla mobilità della zona, altrimenti si rischia un pasticcio, un caos. Questo l'assessore ai trasporti, ma pare che Marino abbia in testa, ormai non lo si sa molto perché in questo momento è blindatissimo, è in casa, non parla certo con la stampa, non si sa bene che cosa abbia in testa, ma tutti giurano, vuole fare quest'ultima sfida, pedonalizzare totalmente i fori imperiali col divieto di entrare per chiunque, anche autobus, mezzi pubblici e taxi. Staremo a vedere. Intanto sulla questione Roma oggi parla il prefetto Gabrielli, Franco Gabrielli, lo fa in un'intervista a Repubblica. Sono due pagine. Io quando ho letto il titolo ho detto: no, anche il prefetto Gabrielli, questa storia del Dream Team che da ieri dallo staff renziano è passata sui giornali, no? In questi retroscena, funziona così ormai in Italia. Qualcuno del responsabile della comunicazione suggerisce le cose che vorrebbe Renzi, tutto ciò finisce in retroscena sui giornali e poi questa diventa lo storytelling, no? Il racconto dell'Italia. Allora ieri Renzi ha detto che vorrebbe un Dream Team per Roma e guardate il titolo di Repubblica a Gabrielli, una bellissima intervista peraltro di Francesco Merlo che scava anche nel personale, ci fa capire meglio chi sia il prefetto di Roma anche dal punto di vista delle sue passioni personali, della sua vita privata. Roma può cambiare solo con un Dream Team e Marino non ce l'aveva, questo è il titolo, il Dream Team. E infatti Francesco Merlo inizia da qui, scusi, tradotto dal Renzi inglese, ma cos'è un Dream Team? Una buona squadra, questo dice Gabrielli, cioè una giunta, come tutti i comuni d'Italia, una buona giunta. No, il Dream Team ci vuole. Una buona squadra, dice Gabrielli, è una scommessa sul cambio di rotta. Il vero errore di Marino è stato proprio quello di non aver fatto squadra. Pensi a quante volte ha cambiato la giunta. E poi dice sul prefetto, o meglio sul commissario, tecnicamente lo nomino io, ma è chiaro che lo farò insieme al ministro dell'Interno Alfano e al presidente del Consiglio Renzi. Diciamo che se non lo scelgo io sarà certamente scelto con il mio gradimento. Fa intendere quindi che non sarà solo a scegliere. Quando? Nella prossima settimana. Gli fa anche dei nomi Francesco Merlo, cioè Riccardo Carpino, Bruno Frattasi e Paola Basilone. Anzi dice: sono certo, Francesco Merlo di Repubblica, che sia Frattasi, non dico nulla, la risposta di Gabrielli, che comunque poi parla del giubileo, dei rapporti col Papa. Nessuno, dice, l'ho incontrato e basta, ma vigileremo sulla sua sicurezza e lo faranno un team di poliziotti e carabinieri molto preparati, dispositivo efficiente. Parla del giubileo, dice anche: io non sono renziano, Gabrielli, sono un funzionario dello Stato, sul piano personale sono invece un vecchio amico di Enrico Letta. È una bella intervista comunque, a parte il Dream Team, e vabbè, lasciamo perdere. Tra l'altro, su Marino spunta una notizia sul Fatto Quotidiano e c'è questa. Spunta una nuova carta di credito, ancora. Una nuova carta di credito. È una carta di credito di cui si sapeva poco e che è intestata a Giuseppe Piazza, il capo del cerimoniale che accompagna l'ex sindaco, o il sindaco, se volete, nella trasferta anche nell'ultima di Filadelfia. Racconta tutto Paola Zanca a pagina 5 del Fatto Quotidiano. La relazione dell'organismo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio, l'OREF, questo organismo, ha scoperto questa nuova carta di credito, di cui tra l'altro gli estratti conto dal 30 settembre 2015 non sono stati ancora resi noti. Il Fatto si chiede: avremo nuove sorprese con questa carta di credito intestata al capo del cerimoniale del Campidoglio che accompagnava Marino? Non resta che attendere. Una notizia di cronaca mi ha fatto sorridere. Prima... No, vabbè, ve la dico dopo. Non c'è tempo. C'è tempo di una... Ve la dico dopo. State con noi perché mi ha fatto sorridere, ma dopo ve la dico. Riguarda un operaio di Fiat, della Fiat di Termini Imerese, e i film porno. Vi dico solo questo come anticipazione. Ma invece è il momento... dell'articolo che mi ha fatto pingazzone di questa giornata, l'articolo che a voi in macchina fa tenere le mani sul volante senza stritolarlo, perché come sempre noi non lo rimborsiamo, io men che meno. Vanno a rubare con la neonata, ma niente galera per il clan Rom. Pagina 16 di Libero. Dopo un colpo scappano dalla polizia a 150 all'ora con un sedicenne alla guida e una bimba di 8 mesi a bordo. Risultato: arrestati, liberi il giorno dopo e la piccina resta a loro. Alessandro Gonzato racconta tutto ciò a pagina 16 di Libero. Succede a Padova e dopo una sola notte trascorsa in una cella della questura, i 4 nomadi, diventati protagonisti di questo caso di mala giustizia all'italiana, fuggiti a 150 all'ora, rincorsi dalla polizia e braccati, avevano a bordo anche la bimba di soli 8 mesi e alla guida c'era un sedicenne e avevano anche vari precedenti per guida senza patente, possesso di arnesi da scasso, furto, resistenza a pubblico ufficiale. Un giorno di cella e poi via, liberi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Quando Milan alle 6 attico sul giornale e ne vai a cola dieta, ne più per ne più. Mi dicono bergamasco, la nostra amica Aurora Lussana ci sarebbe stata molto comoda a tradurre, non ce n'è per nessuno, questo ci ha detto la nostra amica di Bergamo, grazie cara ascoltatrice, continua ad arrivare le nostre sigle e le vostre sigle in dialetto. Oggi è il giorno della legge di stabilità, tutti blindati in Consiglio dei Ministri per dare via libera a questa manovra da 27 miliardi, si stima, ma oggi scopriremo tra i 27 e i 30, scrive il Sole 24 Ore. La notizia che è più interessante riguarda la pensione anticipata, il part-time agevolato per gli over 63. Sono tutte le indiscrezioni che il Sole 24 Ore mette a pagina 3. Se per le pensioni flessibili bisognerà aspettare il 2016 in stabilità, entrerà comunque una misura di invecchiamento attivo, così viene definito, per consentire ai lavoratori di optare per un part-time volontario con contribuzione piena negli ultimi 3 anni di contratto. È una messa appunto questa misura dai tecnici del ministro del lavoro Poletti. Ancora non è noto l'onere finanziario, forse un centinaio di milioni iniziali, ma è data per certa come misura. Lo schema sarebbe basato su che cosa? Un'intesa tra datore di lavoro e dipendente. Quest'ultimo, cioè il dipendente, opta per un part-time volontario, almeno al 50%, con la garanzia del versamento in busta paga dei contributi netti che l'azienda avrebbe dovuto versare all'INPS, mentre la contribuzione figurativa al 100% viene fiscalizzata. Comunque i dettagli si sapranno oggi. Oggi è il giorno della legge di stabilità. Così come si capirà del canone RAI, che viene dato per certo in bolletta, cioè messo in bolletta. L'addio alla TASI, l'addio alla tassa sulla prima casa, questo Renzi l'ha detto varie volte, l'aumento da 1.000 a 3.000 euro dell'utilizzo del contante, dato per certo da Renzi 2 giorni fa, insomma, e tante altre novità, ovviamente. Le vedremo oggi. A proposito di questo, però, c'è proprio nel giorno della legge di stabilità una piccola tegola per il governo, la questione della spending review, che abbiamo detto sarà non di 10 ma forse 5 miliardi, si fermerà questo, tagliati i tagli, ecco, i tagli vengono sempre tagliati, perché c'è il caso del subcommissario Roberto Perotti, spesso nostro ospite anche in passato, bocconiano, docente da Bocconi, che è andato a fare il subcommissario nella squadra del nuovo commissario della Spending Review, Yoram Gutgeld. Ebbene, il caso Perotti, il professore dei tagli, forse se ne va. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano, ma il giorno è più specifico. Più della spesa si tagliano le teste. Perotti medita l'addio a Palazzo Chigi. Cosa non sarebbe proprio piaciuto al professor Perotti? Il fatto che appunto questi tagli non arrivano mai. Le forbici del governo, scrive il giorno, sono sempre più spuntate. Qualunque dossier di revisione della spesa prima viene ridotto, tagliuzzato, fagocitato, alla fine diventa un piano che evapora come acqua piovana. E invece delle poltrone e delle spese inutili cadono le teste di chi è chiamato a fare i tagli. L'ultimo è proprio Roberto Perotti, che è pronto a gettare la spugna, tornerà a insegnare economia politica alla Bocconi, regalando ai suoi studenti l'amarezza di chi si è scontrato con una fatica di Sisifo. Elaborare, cioè, progetti di tagli delle 8.000 società partecipate, di riduzione degli stipendi dorati di mandarini di Stato, di apparati ministeriali sempre più voraci, e poi vederli sbattere contro gli scogli della burocrazia impermeabile e dell'arrendevolezza della politica. Dunque, il professor Perotti pare molli. Tra l'altro, appunto, c'è la questione del contante, viene elevato da 1.000 a 3.000 euro, 1.000 euro al limite di Monti, 3.000 euro verrà messo in stabilità, c'è Milena Gabanelli dalle pagine del Fatto Quotidiano, dalle colonne del Fatto Quotidiano, che tuona in un'intervista di Carlo Di Foggia a dire: questo è un regalo agli evasori, è un danno per gli onesti. Tema che approfondiremo con il nostro Oscar Giannino dalle 8.15, visto che ieri vi siete particolarmente accalorati su questo. Il sottosegretario all'economia Zanetti difende questa scelta: meno vincoli ai cittadini. Rialzare la soglia dell'uso del contante, dice Zanetti in un articolo del Corriere della Sera, è un modo per dare sempre più potere agli investigatori per lottare con armi affilate contro l'evasione fiscale ed è un'opportunità comunque. La Camusso invece dice: così si strizza l'occhiolino all'economia sommersa. Comunque è interessante sul Corriere della Sera il dossier di Fabio Savelli, che racconta come in Europa ci siano 11 paesi senza limiti. Il caso delle banconote da 500 euro invece è un caso che riguarda l'Italia, effettivamente un aumento notevole, 37 miliardi per lo specifico, nello specifico, di banconote da 500 euro che sono entrate in Italia soprattutto dall'estero, questo fa notare la Banca d'Italia. Comunque ci sono 11 paesi in Europa dove i limiti non ci sono. In alcuni casi, per esempio la Slovenia, l'Austria o i Paesi Bassi, dove non c'è limite all'utilizzo del contante. Comunque ne parleremo anche con Oscar Giannino. La politica è tutta concentrata ancora sul terremoto Lombardia, dove è stato arrestato il vicepresidente Mantovani, è stata fatta una visita in carcere a lui anche da Matteo Salvini, leader della Lega. Dice Mantovani: sono in carcere da innocente. Repubblica fa spuntare subito il nome di Silvio Berlusconi. Sandro De Riccardis a pagina 10. Nel sistema Mantovani anche le assunzioni, su esplicita richiesta di Berlusconi, si fanno i nomi di coloro che sarebbero stati beneficiati di un posto di lavoro grazie alla pressione di Berlusconi. Per la precisione, Mariella Bocciardo, prima moglie di Paolo Berlusconi, messa nel policlinico di Milano. Giampaolo Rossi, marito della parlamentare PDL Bergamini, Richard Rizzi, fratello del capogruppo del PDL a Milano, Alan, per la procura, tutti questi impegni sono assunti da Mantovani su esplicita richiesta di Silvio Berlusconi. Vabbè, su qui ci si dibatte e si dibatte molto, perché Salvini dice è un complotto della magistratura, di fatto è un attacco alla Lega. Libero dice l'uomo di Maroni, Garavaglia, è indagato per essersi informato su una onlus per un SMS. C'è il solito dibattito che passa attraverso i giornali, manette facili, dice Libero. Così tornano le accuse, il giustizialismo con le accuse già formulate sui giornali, mentre altri quotidiani, come appunto Repubblica, si spingono già a dire c'entra Berlusconi. Vabbè, come al solito, questa volta associato a questioni giudiziarie, ma mi dispiace, è un puro caso, è una coincidenza temporale, arriva il nostro Mauro Meazza, che nulla c'entra con questa vicenda, caro Mauro. Alessandro, ti piace come presa di distanza? Sì, vabbè, diciamo che è un po' una foglia di fico, ma oggi, guarda, è un giornatone, quindi sì. Non ho tempo per queste tue provocazioni giudiziarie. Mm. È un giornatone perché il giorno della legge di stabilità. Tra l'altro ti voglio dire che se tu guardi proprio nelle prime pagine sulle 24 ore, vedrai che questa legge si presenterà un po' come un composito, perché ci sarà il disegno di legge di stabilità, ma poi dei disegni di legge collegati. Però. Quindi c'è anche questa suspense di capire ma che va nella stabilità, cosa va nei collegati. Insomma, guarda, pagina 3 e anche le successive, oggi del Sole 24 ore, ti spieghiamo tutto, poi ci prepariamo naturalmente a raccontare tutto quanto. Ma è un giornatone anche perché oggi c'è un importante vertice a Bruxelles e si parlerà di immigrazione. Quindi anche per questo motivo la giornata si presenta importante, ma forse possiamo anche dire decisiva. Forse sì, decisiva oggi si può dire. E poi naturalmente oggi, vabbè, ma questo è forse più un dettaglio, però un dettaglio non da poco, c'è anche il Congresso Nazionale dei Commercialisti che segnaliamo sulle pagine, indovina quali? Di norme e tributi, ovviamente. Oh, bravissimo. Allora, se sei arrivato a religiosamente leggere le pagine di norme e tributi, scoprirai anche che si prepara una strettuccia sul patent box. Una strettuccia fiscale. È stata inserita un'agevolazione, però adesso pare che verrà un pochino ristretta, forse chissà, era troppo generosa, pare che non fosse in linea con l'OCSE, vedremo, ce lo chiede l'OCSE stavolta, non ce lo chiede l'Europa, sai che di solito si diceva ce lo chiede l'Europa, qui pare che ce lo chieda l'OCSE. Oh, ti voglio anche dire, già te ne parlavo ieri, c'è un po' un pasticcetto su queste spese sanitarie del 730 precompilato, sì, perché le professioni della sanità non sono mica tanto d'accordo su questa fornitura di dati, quindi bisognerà che si trovi una composizione alla vertenza. Lo raccontiamo naturalmente nelle pagine di norme e tributi, dove ti diamo anche il dato del TFR di settembre. Questo eri in pensiero? No, però so che al convegno dei commercialisti saranno tutti. Anche, sì, però interessa anche il consulente del lavoro e anche l'azienda e anche il nostro comune amico direttore del personale. Quindi io non farei tanto il sarcastico sul punto. Sono già sull'attente, hai nominato il direttore del personale. Molto bene. Hai visto che l'IPO, posso dire IPO? IPO, yes. IPO, grazie. All'IPO di Poste la domanda è stata già coperta, leggi le pagine di finanza, lo devi sempre fare naturalmente caro Alessandro, però se leggi le pagine di finanza scopri tutti i dettagli appunto su questa IPO che è, come abbiamo detto in questi giorni, molto importante. Avrei molte altre cose da dirti, ma oggi, guarda, davvero c'è un sacco di cose da fare, mi devo preparare. Mi sembra giusto. Magari anche quello che ci dice Ettore di far parte, che ne dici? Il Milan e Meazza il Dream Team de Noantri, ci dice Ettore. Ma precisamente Dream Team? Ma non lo so, è passata da Renzi questa cosa del Dream Team. Non lo so. Io conosco Argenino, si diceva Lay Team, ti ricordi? Oppure c'era il Dream Team, quello con Magic Johnson. Quello lì, va bene. Io non so, noi potremmo fare i Dream Twin, forse, tu e io. Vabbè, una battuta per il British Council, questa qua. Esatto. Ok, lasciamoci così senza rancore, caro Alessandro. Sì. Traffico! Alessandro Milan, il giornalista più titolato del mondo. Facciamo anche il giuoco più bello del mondo, se è per questo. Siamo in diretta anche su Periscope da questo momento con il giuoco più bello del mondo. Allora, i giornali oggi sulla politica, vi dico solo questo, faccio un accenno perché non c'è molto tempo. Fanno paginate e paginate sul presunto golpe e complotto di Napolitano nei confronti di Berlusconi nel 2011. E dedicano paginate all'uscita di Quagliariello dal nuovo centrodestra. Il Corriere addirittura dedica una pagina a questo, con intervista a Quagliariello che dice: lascio il nuovo centrodestra e vado con Tosi e Fitto. Ora capite perché i giornali non vendono più molte copie rispetto al passato. Comunque, sulla Stampa, Iena, a pagina 3, la mette così: Quagliariello, anche le pulci hanno la tosse. E vabbè, andiamo ad altre cose, credo più interessanti. Il Papa che chiede perdono per gli scandali recenti nella Chiesa. A cosa si riferiva? Il Corriere della Sera ha una lettura sua, anche perché il Corriere della Sera ha portato alla luce con un'inchiesta quello che sta succedendo da qualche tempo nella parrocchia di Roma, che è la parrocchia intitolata a Teresa d'Avila, suora spagnola vissuta nel XVI secolo, famosa per il suo misticismo, una parrocchia che sta in Corso d'Italia al 38, e guardate il titolo del Corriere, Fabrizio Peronaci a pagina 10, quel dossier sui carmelitani scalzi, prostituzione gay, droga, omertà. Succede appunto, e si racconta in questa parrocchia, di rapporti mercenari tra i cespugli e nei sottopassi stradali, tra un alto prelato e alcuni prostituti di Villa Borghese, sospetti su un altro paio di religiosi, reticenze e complicità dei superiori, uscite laterali del convento incustodite per le scappatelle notturne, intimidazioni verso i padri che volevano denunciare l'andazzo e ancora presunte molestie verso un giovane sacerdote il quale 4 anni fa restò talmente traumatizzato da lasciare dall'oggi al domani l'abito talare e ora lavora in una gelateria. Cioè, questo sarebbe in un dossier della parrocchia di Santa Teresa e questo sarebbe il motivo che ha spinto il Papa a chiedere perdono e scusa per i recenti peccati della Chiesa. Vabbè, vi segnalo questo, ecco, ve l'avevo detto. La storiella è quella dell'operaio della Fiat di Termini Imerese e alcuni film porno. Il Giorno racconta a pagina 17 questa storia: vede film porno in pausa pranzo, no al licenziamento. La vicenda è finita davanti a un giudice perché un operaio di Termini Imerese era stato licenziato per aver visto filmini durante la pausa. Per la verità l'accusa era durante l'orario di lavoro. In primo grado il tribunale aveva confermato il provvedimento disciplinare della Fiat, ma poi si è scoperto che forse vedeva degli scorci e degli spezzoni durante la pausa mensa e non durante l'orario di lavoro. Ecco dunque che vedere film porno in pausa di lavoro evidentemente si può fare. Cari italiani, siete preoccupati perché sta arrivando Starbucks? È un tormentone che prosegue da anni e che forse ha ora una svolta. Lo racconta Daniela Polizzi sul Corriere della Sera, pagina 29. La grande catena dove si può bere quella brodaglia del caffè americano, Starbucks, arriva forse in Italia, e la trattativa con l'imprenditore Percassi, Antonio Percassi, 62 anni, bergamasco, ex calciatore, ora proprietario anche dell'Atalanta, oltre che di tanti centri commerciali, pare che entro dicembre arrivi il frappuccino. Potremmo provare il frappuccino. Peter, non sei che guardi così, il cappuccino americano, il frappuccino, oppure la brodaglia americana, per chi gli gusta, insomma. Starbucks forse arriva in Italia, finalmente ci siamo. Notizie di cronaca, che devo dire, questa è stata incredibile, l'ho trovata sulla Stampa, la leggo solo così in prima pagina. Succede che un 18enne ha estorto un euro a un 15enne a una fermata dell'autobus, e per una serie incredibile di questioni burocratiche, si è trovato condannato a 2 anni e 3 mesi in primo grado per estorsione. Ha estorto 1 euro a un 18enne. Sapete come fanno i bulli alla fermata dell'autobus? 1 euro a un 15enne, 2 anni e 3 mesi. Lo racconta La Stampa. Devo correre. Dico solo che la carta costa è questa. Il profumo di Cleopatra. È stato scoperto il profumo di Cleopatra e lo scrive Libero. Cleopatra. Il profumo di Cleopatra. Ma chi se ne frega!